Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1861, la misteriosa morte in mare di Ippolito Nievo. La tragedia è avvenuta di notte. C'era mare brutto e tutti gli 80 presenti a bordo sono morti. Ma più di un dubbio resta sul dove e soprattutto sul perché. La notte tra il 4 e il 5 marzo di quest'anno 1861, la nave a vapore Ercole della società Calabrosicula in navigazione da Palermo a Napoli si è affondata. La ricostruzione ufficiale parla di naufragio causato dall'esplosione delle macchine messe a dura prova da una buriana. Ma nessuno può testimoniarlo. L'ultimo avvistamento dell'Ercole è ad opera di due navi, un vascello inglese e il piroscafo Pompei, non lontano dalle bocche piccole di Capri. Delle navi anche più piccole, partite da Palermo quel giorno, l'Ercole è l'unica a non giungere a Napoli. Sparisce tra i flutti, senza lasciar traccia, trascinando sul fondo il viceintendente generale dei Garibaldini in Sicilia, Ippolito Nievo, e tutte le carte dell'amministrazione dittatoriale dell'isola. Palermo, lunedì 4 marzo, ore 12:20, il piroscafo Ercole molla agli ormeggi. A bordo c'è Nievo, patriota e scrittore nato a Padova, tenente colonnello dell'esercito garibaldino. Con sé porta una cassa, con il rendiconto della contabilità della gestione dittatoriale della Sicilia dal 2 giugno al 31 dicembre 1860. A chiamarlo a Torino è l'intendente Acerbi, con cui ha condiviso la responsabilità dell'amministrazione. Su di loro pesano le accuse di La Farina, l'inviato di Cavour in Sicilia, promotore di una furiosa campagna antigaribaldina. Nievo, per quello che abbiamo potuto accertare, è stato integerrimo. In una lettera all'amata, la cugina Bice Gobbio Melzi de Ril, il 23 ottobre del 1860 scrive: «Se sono sempre questioni delicate le questioni di denaro, figurati poi per me, che ho ereditato tutta la gestione rivoluzionaria da maggio in poi. È un caos inestricabile, nel quale è uomo di coraggio chi non si perde e chi mette la propria responsabilità nel dovere di regolarlo». Il Gazzettino ha raccolto una voce che va riferita anche se non trova conferma. All'inizio dell'impresa dei Mille, durante la sosta a Talamone, sui piroscafi Piemonte-Lombardo vennero caricati con il via libera dei militari sardi, armi, munizioni, 4 cannoni leggeri e pure migliaia di piastre turche in oro, soldi raccolti dai patrioti, ma anche da massoni liberali inglesi, 3 milioni di lire. C'è chi dice che l'oro abbia comprato i generali borbonici. Di sicuro molti potevano temere quel rendiconto. Il governo di Torino e anche gli inglesi. Qualcuno sospetta un affondamento doloso, magari una bomba a tempo. Sulla nascita del Regno d'Italia pesa un'ombra e sospetti, forse senza motivo, ma che nessuno potrà mai dissipare. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.